me queda más que decirles buenas noches, felices sueños, y no se vaya de la sintonía porque ya está nuestro amigo Roberto y el programa. Ciao ragazzi. Sì, ciao ragazzi, ciao, eccoci qua, sono Roberto, come state? Eccomi qua, scusate il leggero ritardo di 2 minuti, sai, diventa sempre più difficile arrivare in radio in orario, mi scusate. Comunque, come state? Benvenuti ad un'altra puntata di Ciao ragazzi con Roberto. E un grandissimo saluto a una ragazza che farà il montaggio di questo programma e lo metterà in internet. Sto parlando di Franziska, la tedesca. Ciao Franziska, t'ho promesso un saluto. Hello, hello, hello, come stai? Spero bene. Eccomi qua, sarà un programma abbastanza interessante, credo, perché faremo un altro collegamento in Italia questa puntata, almeno spero che faremo un collegamento in Italia. C'è una nostra nuovissima amica che si chiama Nicoletta da Roma, lei farà una chiacchierata con noi più tardi in trasmissione, sarà la sua prima volta in radio. Questa è una ragazza che ho conosciuto in Italia e lei avrebbe l'intenzione di venire in Australia più tardi quest'anno. Gli chiederemo perché proprio l'Italia gli interessa, perché gli interessa proprio l'Australia come posto per venire a farsi le vacanze. Boh, chissà perché. Un altro saluto va a alcuni nostri ascoltatori, Daniela, a Luca che è stato il nostro ospite e anche a Fabio che è stato il nostro ospite la settimana scorsa. Dunque c'è un altro amico qui in studio, il nostro studente d'italiano, se ve lo ricordate, Johnny. Johnny è qua, tra poco faremo una brevissima chiacchierata con lui per sapere come stanno andando i suoi studi della lingua italiana. Comunque, questa settimana faremo la classifica, può darsi, sì e no, vediamo come vanno le cose. Ho deciso che questa settimana mettiamo un po' di tutto, un po' delle canzoni che abbiamo già sentito, qualche canzone che non abbiamo sentito e facciamo le solite stupidate. Comunque, Johnny sta sorridendo perché capisce quello che significa stupidata, giusto? Aspetta, noi tra qualche minuto torniamo in trasmissione, però nel frattempo vi metto in onda Neck con Instabile. State ascoltando a Ciao Ragazzi su 2RRR. Bentornati in trasmissione, eccomi qua, sono Roberto, come state? Dunque, piccolo problemino col telefono. Stiamo avendo dei problemi collegarci con Nicoletta. Sai, è difficile essere dall'altro lato del mondo, anche con tutte queste nuove tecnologie a volte rimane difficile collegarsi con alcune persone. Però io c'ho una rubrica qua abbastanza estensiva con tanti numeri di telefono. Vediamo con chi ci possiamo collegare per questa puntata, vediamo, fammi vedere qua. Dunque, questa è la mia agendina, la porto con me ogni volta che vengo in radio, in caso che dovessi chiamare qualcuno, c'ho i numeri qua. Dunque, Alberta, ragazza che ho conosciuto durante le Olimpiadi del 2000, abbiamo lavorato insieme a Casa Italia, siamo stati delle guide per gli atleti e per i rappresentanti dei media, quindi dei giornali e della radio, i loro inviati qui in Australia per le Olimpiadi. Chiamerò ad Alberta? No, Alberta no. Vediamo, passiamo a B, non c'è nessuno, l'alfabeto è lungo, vediamo, B, non c'è nessuno, C, Claudio. Un altro ragazzo che ho conosciuto alle Olimpiadi del 2000, abbiamo fatto la stessa cosa, ma niente, no, Claudio no, passiamo avanti, Claudio, ecco, Dottor Piero, i cognomi non li dico perché non è giusto, però il Dottor Piero è stato un docente per un corso che ho fatto nel 2000, un corso di marketing e di import-export. Dunque, posso chiamare questo il dottore Piero YYY? No, no, non lo posso chiamare. Ti darei fastidio questa domenica. All'ora di pranzo non lo vorrei disturbare. Passiamo alla lettera C. Catania militare, no? Catania militare, non vorrei chiamare la caserma dei militari in Catania, non so perché c'ho questo numero nell'agendina, però no, non mi va di chiamare la caserma militare di Catania, per questa puntata almeno no. Dunque, Diana, un nome di una ragazza che non conosco, non mi ricordo, non mi viene in mente, chi sarà questa Diana? Johnny? Vorrei un momento e sistemo il microfono. No, no, mi dice no, no, non attacca. Cavolo. Vabbè, non prende. Dunque, Derek, no, lui abita in Australia e non parla in italiano, quindi con lui non possiamo parlare. Vi sto annoiando, ascoltatori, sto passando nella mia agendina. Sto cercando qualcuno che potrei chiamare questa puntata per farmi una chiacchierata in linea. No, dai, la metto giù. E passiamo avanti, poi dopo il prossimo stacco passiamo dalla lettera E alla lettera L. Dunque, parliamo un po' di cose importanti, non impertinenti come quello che ho fatto negli ultimi 5 minuti. Dunque, parliamo del Comitato Assistenza Italiani, che è un'organizzazione not for profit che opera come centro d'assistenza per la comunità italo-australiana da oltre quasi 40 anni. Dai suoi modesti inizi alla fine degli anni 60, il COASIT oggi continua a seguire i suoi obiettivi iniziali con efficacia, cioè assistere gli emigrati italiani tramite un coordinato programma d'accoglienza e promuovere sia la lingua che la cultura italiana in Australia. Sotto questi due primari obiettivi, COASIT opera grazie al contributo di professionisti bilingui di varie specializzazioni, quali psicologi, assistenti sociali, interpreti, eccetera. COASIT offre servizi di supporto per la varietà di problematiche che potrebbero affrontare membri della comunità italo-australiana, da problemi burocratici, problemi familiari, a problemi di tossicodipendenza e alcol. Oltre ad assistenza con problematiche di questo genere, COASIT si presenta come una risorsa immensa di materiali culturali, con un'ampia video e biblioteca, oltre ai suoi eccezionali programmi di insegnamento della lingua italiana, sia giovani che i più grandi. Dunque, se siete interessati a contattare il COASIT, il numero è 02 9564 0744, oppure per posta elettronica, non posta elettronica ma l'indirizzo web, scusate, è www.coasit.org.au. Dunque, potete recarvi alla sede del COASIT, volendo, al 67 Norton Street, Leichardt. Capite? 67 Norton Street, Leichardt, si chiama Casa Italia, e questa è la sede del COASIT, il Comitato Assistenza Italiani. Dunque, questo programma, adesso, grazie alle nuove tecnologie digitali, può essere ascoltato in web format, in internet, sull'indirizzo www.2rrr.org.au, e seguite il link. Il programma Ciao Ragazzi può essere ascoltato anche sui vostri computer, può essere scaricato, saranno un 12 megabit, potete scaricare il programma, potete metterlo sul vostro lettore MP3, sul vostro iPod, e potete ascoltarlo quando volete. Mi sto divertendo un po' qua con Johnny, ci stiamo combattendo con gli occhi noi due, perché il ragazzo sta imparando l'italiano, ci sono cose che capisce e cose che non capisce. Comunque adesso mi sembra un po' stressato John, vero? No, non può parlare in questa puntata. Comunque, state ascoltando a Ciao Ragazzi, come state? La Ferrari, grande, la Ferrari, grande, ha vinto la Ferrari. Che emozione quando vince la Ferrari. Scusate a una nostra ascoltatrice Sally, che segue la McLaren, anche se ama l'Italia, è una tifosa della McLaren anziché la Ferrari, quindi mi dispiace per lei, ma abbiamo vinto noi, siamo i più bravi. Dunque, sono le 23:15, spero che vi state divertendo. Se vi state divertendo vuol dire che non state ascoltando, non state seguendo questo programma, perché questo programma non è tanto divertente questa settimana. Comunque, vediamo. Un altro saluto a Francisca, ciao, come stai? Non mi sta rispondendo. Comunque, passiamo avanti a una canzone di Ligabue, una canzone abbastanza divertente, però vi devo avvertire a tutti coloro che stanno ascoltando a questo programma in formato MP3, perché... Scusate, mi viene da ridere. Il programma in formato MP3 non si può sentire la musica, perché per motivi di diritti d'autore, eccetera, non possono essere trasmessi per via internet le canzoni o la musica presentata su Ciao Ragazzi. Però tutte le altre cose, cioè queste chiacchiere, queste stupidate, possono essere sentiti in formato MP3 sul nostro sito www.2rrr.org.au. Una grandissima innovazione per la nostra rete locale qui in Australia. Anche un saluto a tutti i nostri ascoltatori in Italia, perché adesso grazie all'internet si può anche scaricare dall'Italia questo programma. Dunque, stiamo bene, sono le 23:17 minuti e 37 secondi grazie al nostro nuovo orologio digitale. Adesso passiamo ad una canzone di Ligabue, Le donne lo sanno. State ascoltando Ciao Ragazzi. Che bella questa musichetta, Jimi Hendrix. Organ Donning, Community Service Announcement. Bentornati a Ciao Ragazzi, abbiamo avuto un discreto successo, dunque siamo riusciti a contattare la nostra amica Nicoletta, tra poco, diciamo dopo la prossima canzone ci possiamo collegare, mi organizzo un po' qui con i miei materiali e parleremo un po' con questa ragazza, Nicoletta, dunque... Mi sa che è passato tanto tempo da quando abbiamo parlato con la Ste, la nostra amica da Brescia. Può darsi la settimana prossima parleremo anche con lei. Vediamo come vanno le cose, vediamo se tutto va bene. Comunque, nel frattempo vi leggo un altro piccolo annuncio importante per tutti gli italiani, se non lo sanno, l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, organismo ufficiale dello Stato italiano, ha quale obiettivo? Quello di promuovere e di diffondere la lingua e la cultura italiana in Australia attraverso l'organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze. L'Istituto Italiano di Cultura di Sydney offre al pubblico australiano i seguenti servizi: corsi di lingua e civiltà italiana tenuti da docenti qualificati di madrelingua, 2 sessioni annuali di esami per ottenere il diploma di conoscenza della lingua italiana come lingua straniera, una biblioteca italiana a disposizione dei soci dell'Istituto e degli studenti iscritti ai corsi di italiano per la consultazione e il prestito di libri, videocassette, CD, DVD, riviste e giornali italiani. Servizio di informazione e documentazione sull'Italia nel campo culturale per le manifestazioni concertistiche, per alcune mostre d'arte e per gli eventi di maggior respiro, l'Istituto si avvale della collaborazione. Oltre a ciò, è un ottimo punto di riferimento per bandi e concorsi disponibili per studenti interessati ad ottenere borse di studio per studiare in Italia. L'Istituto può essere contattato allo 02-392-7939 oppure per email iicsydney@esteri.it. L'ho letto bene questo annuncio, Johnny? Mi sta dicendo sì. Con gli occhi mi sta dicendo sì. Il Consolato Generale d'Italia di Sydney è il più importante punto di contatto dei cittadini italiani e i loro discendenti con la pubblica amministrazione italiana. Il Consolato offre assistenza in materie relative all'immigrazione, pensioni, passaporti, autenticazione burocratica e informazioni generali sui servizi disponibili per cittadini residenti all'estero. Il numero di telefono per il Consolato Generale di Sydney è 02-9392-7900, quel numero di nuovo, 02-9392-7900. 00 oppure al 45esimo piano del Gateway Building a Circular Quay in centro città, come anche l'Istituto di Cultura di Sydney che si trova proprio a fianco, il 45esimo piano del Gateway Building a Circular Quay. Dunque, state ascoltando a Ciao Ragazzi, io sono Roberto, il vostro host of the show. Come state? Bene? Spero sì, spero sì. Dunque, il nostro numero in studio, se ci volete contattare, è 98162938. Quel numero di nuovo, 98162938, per parlare con noi in studio. Però se qualcuno telefona, dovrebbe aspettare dopo che mi si libera la linea, dopo aver parlato con Nicoletta, che ci racconterà un po' quello che sta facendo e perché ha questa intenzione di venire in Australia per viaggiare. Perché questi ragazzi, così, gli viene l'idea di venire in Australia? Stanno in Italia, lì c'è, a due passi c'è Londra, c'è Amsterdam, c'è Berlino, c'è Mosca, ci sono tante altre città, direi, interessanti a livello, può darsi, anche dell'Australia. Non è una cosa brutta da dire, ammettiamolo, ci sono tante bellissime città a due passi dall'Italia. Perché agli italiani viene la voglia di venire qua a viaggiare in Australia? Devo dire, sinceramente, stando uscendo fuori venerdì sera o sabato sera nei locali, io sento parlare tanti turisti, il numero di turisti italiani, e io mi metto a pensare, ma quanti saranno questi ragazzi che vengono fino a qua per divertirsi, e per quale motivo? È tanto distante questo paese, però vengono. La risposta dopo la prossima canzone. Dunque, prima di passare alla prossima canzone, vi sentirete parlare per circa 30 secondi e dirò il seguente. Dirò che è stato bello svegliarsi questa mattina e vedere la Ferrari vincere la gara di Formula 1 a Melbourne. Fabio, il nostro ospite della settimana scorsa, è stato a Melbourne, lui ci preparerà una rubrica dopo una settimana della fine della Formula 1, ci dirà un po' quello che ha fatto, dai, se si è divertito a Melbourne, so che c'ha parenti là. Anzi, vi dico un'altra cosa, Fabio la settimana scorsa si è voluto fare un tatuaggio sul bacino. Se l'è voluto fare questo tatuaggio? Se l'è voluto fare il tatuaggio e se l'è fatto con tanto dolore quel tatuaggio. Non ha pianto, però io ci credo, io l'ho capito. Comunque farebbe un gran male farselo sul bacino. Si è fatto un simbolo cinese, la parola tigre, sul bacino. Quindi complimenti a lui che ha resistito al dolore, adesso ce l'ha, se la tiene per sempre. A suo padre non gli ha detto niente ancora, mi sa che quando torna in Italia gli si prenderà un bello shock a suo padre. Comunque, state ascoltando a Ciao Ragazzi, io sono Roberto e adesso le vibrazioni con dedicata a te, state ascoltando a Ciao Ragazzi. Non sa quello che si perde il nostro amico in studio, perché siamo in onda con Nicoletta, finalmente ci siamo riusciti. Ciao Nico! Sono contenta, ciao! Un saluto all'Australia, Nicoletta! Un bacio dall'Australia e dall'Italia, da Roma precisamente, quasi Piazza del Popolo. Ah, in Piazza del Popolo ti trovi oggi, ecco! Sì, ho fatto un giro bestiale, dallo zoo a Piazza del Popolo. Ma che fai questa domenica? Stai passeggiando in giro? Sì, passeggio perché c'è un sole spettacolare. C'è un sole spettacolare? Fa un caldo assurdo e dicono che da domani si abbassano le temperature, quindi bisogna approfittarne. Giusto, giusto, bisogna approfittare. Quando c'è il sole bisogna approfittare. E quindi è domenica, ovviamente lì è pomeriggio, qualche cosina te la sarei... Invece da te che giornata c'è? Ma guarda, l'estate sta finendo qui tristamente, il 21 di marzo inizia l'autunno, quindi... L'autunno, invece è nella primavera. Beati voi che state bene. Dunque, avevo fatto un cenno all'inizio della trasmissione che avremmo parlato con una certa Nicoletta, una ragazza di Roma che pensa e si sogna l'Australia. certamente, è un sogno un po' di tutti, ma prima o poi c'è da realizzare. Prima o poi è da realizzare, ma perché questo interesse per l'Australia? Va bene, perché i racconti, i giornali, le riviste sui viaggi, sul mondo, cioè raccontano l'Australia, è un posto meraviglioso, poi è normale, i problemi sono dappertutto. Però come già quello che ti offre il panorama, il clima, non so. Ecco, vabbè, è giusto, no? Perché stavo dicendo prima che comunque dall'Italia c'è Londra, c'è Amsterdam, c'è Berlino, ci sono tante città dove una persona può viaggiare, però qui in ogni caso vengono le persone dall'Italia, giovani turisti, vengono in Australia, dall'altro lato del mondo, e mi chiedo, ma perché? È proprio per questo. Per quello che si legge nei giornali e quello che si vede in televisione, può darsi, si sentono delle belle cose. Sì, ma anche cose. Proprio per la voglia di un cambiamento radicale, perché voglio dire, non è come Londra, come dici di Amsterdam, che comunque è un'ora d'aereo, volendo una matta lo fa, cioè in una settimana lo caglieggi in viaggio, invece va a fare una cosa che devi proprio ponderare, che ti nasce da dentro, capito? Ecco, è una missione. È una missione, esatto. Io non te l'avrò detto, però c'ho degli amici nuovi qua in Australia, due ragazzi, sono studenti di biologia marina e sono venuti qua per fare delle ricerche per la loro tesi, due ragazzi siciliani che hanno avuto un po' questo... Siciliani? Di dove? Sono di Ragusa. Ah, perché io ho origini siciliane, mia mamma è della Sicilia. Anche tu, ma anch'io, sì. siamo tutte siciliane. Hai visto? Hai visto? No. Il mondo è paese. Il mondo è paese, infatti. E questi ragazzi comunque, sì, hanno avuto più o meno questa stessa idea, questi sogni. Quanto tempo si fermano? Fabio si ferma fino ad aprile perché, non so, gli sono cambiate un po' le idee, un po'. Ah. Non so, non me lo sono fatto spiegare bene, però Luca rimarrà qua fino a luglio. Bravo ragazzo questo Luca. Può darsi, lo conoscerete questo ragazzo. Comunque, nuovi amici miei. Dunque, te studi scienze del turismo, mi sbaglio? Esatto, sì. E questo c'è un po' l'inizio, no? Ecco, è un inizio, quindi c'hai sempre questa passione per il viaggiare, mi sa. Esatto, sì, appena ho la possibilità sia economica che temporale, è fatto. Ecco, ma sei in compagnia là, sento una voce. Sì, adesso stavo mio ragazzo. Ecco, e come sta? Sta bene. E ti crede che stai parlando in onda in Australia? Gliel'hai spiegato sì, bene? Sì, mi crede, anche pure un po' geloso. Oh, mi crede. Poveraccio, ma puoi metterlo in linea se vuoi. No, non vuole. Non vuole. Comunque, una novità è che questo programma adesso può essere scaricato in formato MP3 in internet, quindi vi posso lasciare... Sì, lasciami nell'email l'indirizzo. Ecco, ti lascio nell'email l'indirizzo così che puoi scaricare. Ma mi hai chiesto qualche foto del Queensland, mica me le mandate. Come? A Queensland? Che cosa? Come? Ti ha chiesto qualche foto della tua vacanza. Ah, ecco, perché i nostri ascoltatori può darsi, lo sanno, può darsi, non lo sanno. Ho passato una settimana nel Queensland, nel Rockhampton, un paio di settimane fa. Ecco, te l'ho spiegato per via email, eccetera, e quindi sì. Fotografie sì, ho fatto delle fotografie un po' strane, perché questa città nel Queensland è la capitale della carne bovina. Si dice. Ah, buono! Bistecconi, ecco. Ma la cosa strana è che c'hanno dappertutto, ci sono statue, monumenti dedicate alla vacca. Che spettacolo, bellissimo. Spettacolo no, perché è un po' strano vedere vacche dappertutto, statue di vacche, sembra che sia... Dal nostro punto di vista. Dal nostro punto, va bene, è un po' strano, sembra una città un po' pagana che non so, con le vacche dappertutto. Ma allora me li vuoi mandare queste foto strane che hai fatto? Te li posso mandare, dai, ti mando qualche email di queste foto. Ti mando un misto di fotografie, dai. E gli altri come stanno? Scusate se sto deviando un po' dal programma, adesso mi informo un po' sulle pettegolezze di Roma e di Adriano. Erika. Ecco, raccontami di Laura e Erika, dai, no, siamo in onda, bene, tutti i nostri ascoltatori. Io Laura, manca poco per laurearsi, ma non sono sicura. Bene. Erika, tutto bene? Ecco, Laura, per i nostri ascoltatori, è un'amica mia che si sta laureando in medicina e tra poco sarà la mia assistente personale per tutte le mie necessità di massaggi, eccetera. No, non credo, non credo, non posso assumerla perché non c'ho una lira, quindi... Ah, ecco, appunto. A posto. Depennata. Ecco. Ebbene, Nicoletta, mi sa che la settimana prossima o tra qualche settimana dobbiamo fare un collegamento su un di nuovo, sul programma. Va bene, non c'è problema, fa piacere. Ci puoi preparare anche una rubrica se vuoi. Tutto si può fare. Va bene, preparo qualcosa. Preparami qualcosa, dai. Va bene. Nel frattempo ti saluto e... Ok, saluto a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato in questo breve momento. Ecco, ecco, tra poco scatterà la linea, riceveremo tutte le nostre chiamate. Vabbè, ma se c'è qualcuno che è in collegamento da di Roma, ben venga. Ben venga. Ok. Dunque, io non mi ricordo che CD avrò messo adesso, non mi ricordo. Comunque ti saluto e vediamo che cosa c'è. Anche a te un bacione. Ok, ciao Nico, ciao. Eccoci qua, spero che vi siete divertiti con la telefonata di Nicoletta. Un po' impreparati siamo stati, senza aver preparato una rubrica. Sono così le chiamate, dai, in diretta, dal vivo. Come state? Eccomi, sono qua, sono Roberto e state ascoltando Ciao Ragazzi. È stato bello parlare con Nicoletta. Piazza del Popolo si trova. Bene, che bella Piazza del Popolo. Ci siete mai stati in Italia? Se siete stati in Italia e volete raccontarci un po' della vostra esperienza, telefonateci al 981-6293-8. Dunque, eccomi qua, sono le 23:45 minuti oppure mezzanotte meno un quarto, dipende. Dipende come vi butta. Dunque, passiamo a qualche annuncio locale. L'ANFE organizza per domenica 25 marzo, con inizio alle ore 10, l'Assemblea Generale Annuale al Club Marconi. I soci interessati a fare parte del comitato direttivo sono pregati inviare le loro candidature una settimana prima dello svolgersi dell'Annual General Meeting al seguente indirizzo: ANFE PO Box 293 Dunside, New South Wales 2767. Come di consuetudine, anche quest'anno sarà allestito un leggero rinfresco a puro titolo di ringraziamento ai partecipanti. Dunque, c'è anche un altro annuncio abbastanza interessante, cioè la gita dell'Associazione Alpini al Museo di New Italy. L'Associazione Nazionale Alpini organizza una gita nei pressi di Lismore per festeggiare due importanti ricorrenze. La prima è la festa di New Italy per rendere omaggio ai 125 anni di insediamento dei primi immigrati italiani nella zona di Lismore. La seconda è l'inaugurazione da parte dell'Associazione Nazionale Alpini nel Museo degli Alpini a New Italy, un'occasione per lasciare ai posteri un ricordo tangibile della storia del commilitoni emigrati nostra. È bello, sto leggendo bene questo annuncio? Mi sa di no. Dunque, scusate, il programma della gita prevede sabato 14 aprile partenza dai seguenti punti di raccolta: ore 7 alla Yagoona Railway Station, Hume Highway, ore 7:15 a 44 Martin Street, Lidcombe, ore 12 a Tari presso l'RSL Club del luogo, bevande non incluse, ore 18 arrivo al motel Coffs Harbour, colazione compresa, ore 18:30 cena con gli alpini della sezione di Coffs Harbour presso il Catholic Club, bevande non incluse. Domenica 15 aprile, ore 7 prima colazione, ore 12 lunch a New Italy, bevande non incluse. In serata cena presso Fisherman's Club di Coffs Harbour. Dunque, poi lunedì 18 aprile, ore 7 prima colazione, mezzogiorno lunch, cioè pranzo, a Tari, bevande non incluse, ore 18 circa rientro a Sydney. Poiché le festività pasquali sono ormai alle porte, invitiamo tutti gli interessati a prenotare quanto prima, in modo da darci la possibilità di organizzare al meglio la gita e le relative attività. Il costo complessivo è di $320 a persona. L'inclusione o l'esclusione delle bevande verranno indicate caso per caso. Per prenotazioni rivolgersi a Valentino Rigon allo 02-9958-3220 oppure Luigi Volpato allo 02-9649-4728. Ripeto questi numeri per coloro che sono interessati a fare una gita al Museo di New Italy a Lismore. 9958-3220 per Valentino Rigon e 9649-4728 per Luigi Volpato. State ascoltando ciò, ragazzi. Una dedicazione per i ragazzi. Dunque, un altro annuncio. Festa dell'Annunciazione, domenica 25 marzo nella chiesa di St. Mary a Concord. Si terrà la festa dell'Annunciazione organizzata dall'Associazione Maria Vergine Annunziata, patronata di Bronti Catania. Il programma di preparazione alla festa comincerà venerdì 23 marzo e continuerà sabato 24 marzo alle ore 6.45 con la recita del Rosario e la celebrazione della Santa Messa. I festeggiamenti di domenica 25 marzo inizieranno alle ore 14 con la celebrazione della Santa Messa, seguita dalla processione nella piazzale della Chiesa. Il comitato estende un caloroso invito a tutti i soci, alle famiglie e agli amici a partecipare alla festa. State ascoltando Ciao Ragazzi sulla frequenza 88.5 FM. Dunque, come state? Spero bene. Sono rimasti circa 10 minuti della nostra trasmissione. Mi tocca parlare per un po'. Dunque, ecco, le cuffie. Ecco, le cuffie mi stanno funzionando di nuovo. Dunque, la settimana prossima che cosa sentirete su Ciao Ragazzi? Beh, la prossima settimana tornerà Luca in studio, ci parlerà un po' della sua avventura di pesca e anche Fabio, il nostro carissimo amico Fabio, che è stato a Melbourne, ci racconterà un po' di quello che ha fatto a Melbourne. Sai che questi sono personaggi interessanti che ci possono raccontare un sacco di cose. Dunque, il nostro numero in studio è 981-629-38 e potete chiamarci fuori onda o anche in onda, dai, se squilla il telefono chi si disturba? Solo io che sentite, devo rispondere al telefono, poi mi stacco dal microfono e dico sì, ciao, come stai? Ti metto in onda? Sì, va bene, tutto bene, comunque basta con le mie chiacchierate, passiamo alla prossima canzone, direi. Per adesso l'ultima canzone, no, la penultima canzone della serata, adesso ascolterete a Claudio Baglioni con Io con te non ci sto più. State ascoltando Ciao Ragazzi su 88.5 FM 2RRR. Eccoci, siamo tornati in onda, sorpresa, sorpresissima, e perché è una sorpresissima? Perché stiamo in linea con... Con la Ste, è tornata la Ste, evviva la Ste! Ma non mi avete più chiamato! Sì che ti abbiamo chiamato, guarda ti spiego, ci sono state un paio di settimane di pausa, io sono stato un po' in vacanze come ti avrò anche spiegato, e poi ci sono stati degli ospiti, dei ragazzi Luca e Fabio che sono stati i miei ospiti per un paio di settimane. Arrivati dall'Italia? Sì, questi sono ragazzi che praticamente stanno pensavo canguri. Ecco, sono due canguri che vengono dalla Sicilia, che sono venuti qua per preparare dei materiali per la loro tesi in biologia marina. E quindi sì, sono bello, sì, sono simpatici, sono carini, anche per feste, dai. Però eccoci qua, comunque, siamo arrivati verso la fine della trasmissione, mi è andata di chiamarti così. E com'è la classifica questa settimana? Questa classifica non esiste praticamente, Come non esiste? Ho messo un paio di canzoni così all'aria. Abbiamo appena sentito Claudio Baglioni con Io con te non ci sto più. No, ma io non conosco quella canzone. Non la conosci? È l'ultimo successo di Claudio Baglioni. Ma si sente molto. E non si sente molto Baglioni? No, sì, in generale sì, ma quella canzone non molto. Adesso c'è stato Sanremo e quindi vanno un po' si sentono un po' in radio le canzoni. Ti regalerò una rosa. Ecco, e poi molto quella di Fabrizio Moro. Ecco, di Fabrizio Moro. Come si chiama questa canzone? Si chiama Pensa. Pensa, pensa te. Prima di parlare, pensa. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Grande la Ste, che ci canti in onda, grande. Allora, Ste, ma ce la prepari una rubrica tra qualche settimana? Un piccolo... Ah, ma sì, datemi dei compiti che io faccio tutto. Ecco, ti do qualche compito. E poi una domandina, il Redotto quando è che tornano in Italia? Il 28 giugno a Udine, allo stadio. A Udine? Non a Milano? Sì. No, per la prima volta non hanno mai suonato a Udine. Hanno sempre fatto Milano, Roma, quando, cioè una volta ogni tanto Roma. Pescara. Erano stati all'Heineken. Ma quest'anno non vengono all'Heineken, erano attesi per l'Heineken, ma invece niente, fanno un concerto tutto loro allo stadio di Udine. Bello, il biglietto ce l'hai? Tra l'altro, sì, ne ho preso anche uno in più, ho sbagliato. Non si sa mai se può servire, se lo perdi un biglietto, cioè hai un altro di scorta, ma infatti, no? Esatto, quello che pensavo io, li metto in posti diversi della casa, così per caso ne perdo uno, ho comunque gli altri due su cui andare a parare nell'eventualità, no? Brava, così mi piaci, Ste. Che farai? Li aspetterai davanti all'albergo anche questa volta? Ma purtroppo a Udine non sappiamo bene dove staranno, anche perché il giorno dopo hanno un concerto a Monaco, in Germania, e quindi molto probabilmente partiranno senza alloggiare. Ah. Almeno a sentire le indiscrezioni sul fans club italiano. E vabbè, ma quanti alberghi ci possono essere a Udine, dai? Ma anche perché dicevano che alberghi a 5 stelle, non ce ne sono a Udine. E dove li fanno stare? Quindi, un piccolo ostello per backpacker? Ma guarda, molti dicevano che appunto non alloggiano, cioè non stanno a dormire da nessuna parte. Grandi Redot. E tornano, cioè partono per la Germania addirittura la sera dopo il concerto. Però, ecco, non è detto. Cioè. Non è detto. Però sarà un'altra bella esperienza per te comunque, eh? Beh sì, il concerto di sicuro. Il concerto di sicuro. Come ti invidio, Ste, come ti invidio. Beh, ma come vi invidi? Che ad aprile arrivano anche da voi, eh? Sì, tra un mese anzi, sarà... cavolo, sono io che invidio voi. Ti dico una cosa. Dimmi. Tra noi. È anche possibile che gli farò un'intervista in radio. Ma va, se non ti vedo neanche se ti... non ti credo neanche se ti vedo. E se dovesse succedere? Ti picchio. No, davvero, com'è che sarebbe? Com'è che c'è questa eventualità, questa possibilità? Io sono una persona molto influente, molto potente. Smettila. No, dai, raccontami, com'è che... tramite che cosa? Tramite questa stazione radio, bella. Ah sì? Ma come ti hai fatto contattare eventualmente chi di dovere per chiedere? C'ho i miei poteri, c'ho le mie virtù, le mie capacità. Ma diciamo quante percentualità ci sono? 70%. 70? Anche se brevemente, sì. Mortacci tu. Tronzo. Queste parolacce non si possono dire in onda. Comunque. Di fronte a certe cose. Comunque dobbiamo andare adesso, Ste. Grazie per essere stata anche te un ospite di Ciao Ragazzi su 2RRR. Questa puntata può essere scaricata su www.2rrr.org.au. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie alla Ste grande. Ciao. Ciao. Ciao.